Quindi il nome di Dio è Io sono colui che sono, lo traduciamo in italiano. In ebraico è Echie, Asher Echie, cioè si può tradurre nel sacro tetragramma. Yahweh. Yahweh, il nome sacro di Dio, che gli ebrei per rispetto, adesso lo vedremo subito, nemmeno pronunciano, neanche quando lo trovano nella Sacra Scrittura. Significa appunto io sono colui che sono, quindi il nome di Dio indica la sua essenza. Capite l'essenza indicata da questo nome che ci può sembrare un pochino, per certi aspetti, ostico, no? È complicato. Che significa io sono colui che sono? Io sono colui che sono significa di fatto io sono l'essere, cioè colui che è essenzialmente l'esistente, il vivente. Voi capite che un'affermazione del genere si può riferire soltanto all'Altissimo, perché nessuno di noi, se ci fate attenzione, potrebbe dire in verità e con verità di se stesso io sono colui che sono. È assolutamente impossibile. Semplicemente per il fatto che io, Don Leonardo, che vi sto parlando, ho 41 anni suonati, vuol dire che 42 anni e mezzo fa, non essendo stato nemmeno concepito, semplicemente non ero. Quindi io non potrei, così come nessuno ente creato, nemmeno gli angeli, dire di me stesso con verità questa affermazione, semplicemente per il fatto che il mio essere ha cominciato ad esistere da un certo momento determinato. Quindi questa affermazione è tipica di Dio solo ed indica, l'abbiamo già visto in parte affrontando il primo comandamento, alcune sue proprietà che sono esclusivamente sue e di lui solo. La prima è l'identità tra l'essere e l'essenza, perché dire io sono colui che sono vuol dire io sono l'essere, quindi l'essenza di Dio, per questo si dice che Dio è la vita o il vivente, perché la sua essenza coincide con l'essere. Dio non c'ha la data di nascita, semplicemente è. Saldo il tuo trono, dice un salmo, fin dal principio, da sempre e per sempre tu sei. Quindi questo è proprio di Dio e di Dio solo. Ma non solo, quindi chiaramente è parallelo e speculare a questo attributo, c'è la sua eternità, perché l'identità tra essere e essenza comporta l'attributo dell'eternità, ed anche quello dell'immutabilità, cioè Dio è da sempre e per sempre ed è sempre lo stesso. Quindi questi tre attributi sono assolutamente divini. Quindi non nominare il nome del Signore Dio tuo invano vuol dire fare attenzione che quando noi ci troviamo a che fare con Dio, dobbiamo interiorizzare il rapporto tra il nulla e il tutto. Capite? Cioè io sono il nulla, Dio è il tutto. Quindi guardate che oggi è quanto mai importante, ragazzi e ragazze carissimi, perché qui si continua purtroppo ad abusare, diciamo così, di alcune affermazioni e anche di alcuni titoli sacrosanti e giustissimi di Dio per ingenerare atteggiamenti e comportamenti che sono quanto mai fuori luogo. Quanto mai fuori luogo. Ecco, io anche ieri ho dovuto discutere santamente, però vi dico sinceramente anche un pochino dispiacendomi, per non dire alterandomi, perché mi è arrivato su Facebook un bellissimo tag, potete andarlo a vedere sul mio profilo che c'è ancora, suscitato diciamo non pochi vespai, dove c'era praticamente una foto del grande San Pio da Pietrelcina che stava assistendo ad una santa messa, come capita a volte anche a noi preti, insomma, che possiamo qualche volta, diciamo, avere la tranquillità di stare dalla parte di coloro che assistono, quindi alla Santa Messa, e stava facendo la comunione, come ovviamente ai suoi tempi era, grazie a Dio, prassi, in ginocchio. Era un post chiaramente provocatorio, dove c'era scritto, insomma, ma Padre Pio prendeva la comunione in ginocchio e noi no, noi siamo più grandi di lui. Non vi dico, quando uno pubblica queste cose, si cominciano con discussioni, con cose di questo genere, affermazioni tipo la seguente, no? Ah, Che dite? Che cosa fate? Cos'è questa idea di Dio? Dio è buono, Dio è misericordioso, Dio è il nostro amico. Dio non ha scritto da nessuna parte che bisogna stare inginocchiati davanti a Lui. Non è il Dio terribile che ci schiaccia, è il Dio buono, è il Dio qua a destra e a sinistra. Ora, io sinceramente, quando leggo queste cose, vi dico, io mi proprio intristisco, più che neanche mi arrabbio, perché l'atteggiamento principe dinanzi a questo è una grande tristezza, una grande constatazione di come purtroppo Satanasso lavora, perché di questa dottrina è un ottimo passaporto per riempire l'inferno, se mal interpretata, e convintissimi, tra l'altro, di stare dalla parte del giusto e di dover, come dire, in qualche modo rimbeccare questo prete oscurantista, che è quello che vi sta parlando, quindi state attenti a non dovervi andare a prendere qualche, non lo so, qualche ricostituente dopo che avete sentito queste parole, perché potrebbero farvi molto del male, ha detto di qualcuno, che instilla questa immagine. E io gli ho risposto, io, guarda, io non ho detto assolutamente che Dio è una sorta di, come dire, di pseudo mostro che ci sta davanti e che ci gode a schiacciarci e umiliarci. No, no, però Dio è Dio. Allora voglio dire che anche l'esempio che sta dando il nostro Santo Padre, e non è un caso, no? Questo mi dava del bugiardo. Voi sapete che Benedetto XVI, certamente lui agisce con toni da pastore, è sempre molto molto prudente, però lui adesso, nelle sue celebrazioni, la comunione l'ha data soltanto in ginocchio. E per quanto riguarda la città del Vaticano, ha dato disposizioni che in città del Vaticano, mi pare che ne abbiamo già parlando del primo comandamento, la comunione deve essere amministrata in questo modo. Punto. Ecco, ci sarà un motivo, no? Ci sarà un motivo. Perché oggi, purtroppo, è in crisi proprio questo senso, cioè questo senso della grandezza, della maestà e della santità di Dio. Non è una cosa o un concetto che ci deve affliggere, o che ci deve opprimere, o che ci deve spaventare, ma è, come dire, da tenere ben presente, perché diciamo fa un po' da bilanciamento a quell'altro concetto vero e giusto della bontà, della vicinanza e dell'amicizia di Dio, che non è che è sbagliato, però non può questo aspetto portare ad una confidenza tale che diventa, come dice il proverbio popolare, la madre della mala creanza. Quindi io non posso, pensando che Dio è buono o cose di questo genere, far sparire tutti gli inginocchiatoi dalle chiese, mettere al posto dei banchi, delle pseudo sedie o delle panche, oppure fare delle chiese che sembrano degli stadi, d'accordo? Stravolgendo tutta una serie di cose e facendo completamente smarrire il senso della trascendenza di Dio. Cioè, il fatto che Dio si umili così tanto nell'Eucaristia, io sinceramente sono sempre sbigottito, stupito, allibito, vorrei dire, dinanzi a questa infinita condiscendenza di Dio. Non può, non devi farti dimenticare che chi sta così annichilito è Dio. Quindi il fatto che lui si annichilisca non ti autorizza ad assumere atteggiamenti non consoni, non corretti, malsani o eccessivamente confidenziali, perché quello è Dio. Allora, il secondo comandamento ti dice non nominerà, cioè, non è che ti dice non vi ricordate quando abbiamo fatto i peccati di riverenza? Non usare irriverenze. No, no, devi stare anche attento a nominarlo con riverenza. Vi ripeto che sotto questo punto di vista, ahimè, ahimè, anche se capite questa cosa qui, come di fatto accade, può essere vissuta, come dire, in modo formalistico e quindi non del tutto utile, però gli ebrei, per ricordarsi questo, chi ha studiato un pochino di ebraico e chi ha studiato quindi i testi masoretici, dovete sapere che quando nell'Antico Testamento compare il nome di Dio frequentissimamente, quindi la Yod, la Het, la Vav e la Het, adesso dovete fare un atto di fede se non conoscete l'ebraico, però è così, la vocalizzazione di questi quattro radicali non è data dalle vocali che dovrebbero andarci, perché lo dovrebbe essere vocalizzato in Yahweh, ma le vocali sono quelle del sinonimo generico però di Yahweh, che sarebbe Adonai, che significa Signore, e quindi quando gli ebrei leggono la Bibbia, quando si trovano dinanzi al tetragramma sacro, non dicono Yahweh, dicono Adonai. E tra l'altro, tra parentesi, detto fra me e voi, apriamo una piccola parentesi, voi sapete che i testimoni di Geova fanno tanta commedia sul nome di Dio, sul nome di Dio, c'è tanta ignoranza dietro, perché praticamente Geova non è altro che la lettura, così come è scritto, del tetragramma ebraico nel testo masoretico, Yehovah. Ora perché? Perché la vocalizzazione di quel tetragramma non è corretta. Adesso non posso farvi una lezione, anche perché mi ci vorrebbe una lavagna per farvi capire alcune cose. Praticamente, le vocali che stanno sotto quel tetragramma sono quelle di un'altra parola. In ebraico è così. Quindi, quelle vocali non potrebbero stare, per alcune regole grammaticali che non ho la possibilità di spiegarvi, sotto quei radicali. Per cui, un ebreo non leggerebbe mai Yehovah, perché quella vocalizzazione è scorretta. Quindi pensate quale pandemonio hanno creato i testimoni di Geova sul fatto che dimostra quanto siano ignoranti, con tutto il rispetto parlando, ignoranti nel senso etimologico, perché certamente conoscono l'ebraico, nel senso che sanno leggere l'ebraico, ma non conoscono la grammatica, perché, vi ripeto, quella vocalizzazione lì non potrebbe starci. Capite? Quindi questo grosso equivoco da cui è sorta questa setta eretica dei testimoni di Geova è figlio del surplus di irriverenza, scusate, del surplus di riverenza verso il nome di Dio usato dagli ebrei. Vi ripeto, come tante cose che caratterizzavano anche la spiritualità farisaica contro cui Gesù si scaglia nel Vangelo. Questo che chiaramente può essere un pro forma inutile, no? Tu fai tutto quanto il riverente col nome di Dio e poi campi come un diavolo. Non è questo. Però, indubbiamente, se è vero che i segni ci aiutano anche a comprendere, indubbiamente anche questo è particolare, significativo, capite? E quindi dobbiamo certamente prenderne atto. E prenderne coscienza. Ora, attenzione, oltre al nome di Dio, Signore, c'è da dire qualcosa anche sul termine generico Dio. Io sono il Signore tuo Dio, non avrai altro Dio dinanzi a te. Non nominare invano il nome di Dio. L'abbiamo già visto alcune cose, no? Ora, Dio, proprio il termine Dio, vi siete mai chiesti che significa Dio in greco teos? Allora, qui c'è il grande San Tommaso d'Aquino che nella Summa Teologia, scusate, riferendo il pensiero di un grande padre della Chiesa orientale che è San Giovanni Crisostomo, afferma che Dio può significare tre cose, cioè quindi una triplice possibile etimologia del termine Dio. La prima derivante dal verbo greco teein, che significa correre. Dio quando opera e quando fa qualcosa, la fa in maniera istantanea. Per lui volere una cosa significa immediatamente riuscire a farla senza che la sua azione possa incontrare nessun ostacolo di nessun tipo in nessuna creatura esterna. Questo diciamo a livello di prima significazione. Abbiamo detto che San Tommaso indica una triplice possibile etimologia del termine Dio, citando il pensiero di San Giovanni Crisostomo, grande padre della Chiesa orientale. Il secondo possibile significato etimologico vuole veder derivare il termine Dio dal verbo non tein, ma etein. Etein significa letteralmente ardere. E noi sappiamo che la Sacra Scrittura, nel libro del Deuteronomio, citato poi anche nella lettera agli ebrei, chiama Dio un fuoco. Questa significazione indica un altro aspetto molto importante della divinità, che nient'altro che quell'incendio eterno di amore che caratterizzerebbe, o meglio che caratterizza, la vita intima della divina essenza. Quindi quando diciamo, come dobbiamo dire, Dio è amore, facciamo riferimento proprio a questa possibile etimologia del termine Dio, appunto dal verbo etein, che significa ardere. L'ultima, infine, vorrebbe far derivare il termine Dio dal verbo theaomai, che significa letteralmente vedere, che rimanda al fatto che Dio vede chiaramente e simultaneamente tutte le cose, quindi Dio come colui che vede. Se voi vi ricordate, avete fatto caso, anche a certa iconografia cristiana, probabilmente l'avrete visto in qualche libro di storia dell'arte, ragazzi, oppure in qualche testo del genere, Dio viene raffigurato molto spesso con un occhio dentro un triangolo equilatero, immagine che fa proprio riferimento a questa etimologia, quindi Dio come colui che vede, quindi Dio vede chiaramente e simultaneamente tutte le cose. Tra l'altro quest'ultima significazione, che è quella forse più propria del termine Dio, trova una conferma nell'etimo derivante dal sanscrito thieu. Thieu significa luce in sanscrito e noi sappiamo benissimo che cosa dice San Giovanni parlando di Dio? Dio è luce e in lui non vi sono tenebre. Anche Gesù nel Vangelo si definisce io sono la luce del mondo. Quindi vedete come San Giovanni l'Aquila si è avvicinato molto bene, insomma, a Dio amore, etein, Dio luce, thieu, ecco. E poi colui che istantaneamente agisce e provvede a tutte le cose. Quindi potremmo definirlo quindi il padre buono e provvidente. Quindi quando noi diciamo, attenzione, non nominare invano il nome del Signore Dio tuo, bisogna ricordarsi che uno, Dio in quanto tale, quindi natura divina, quindi significato generico, indica colui che è immensamente al di sopra di noi, indica colui che è onnisciente, indica colui che è eternamente felice nel suo incendio intratrinitario di amore e indica colui che a differenza di noi che siamo limitati e imperfetti tutto può semplicemente con un atto della volontà. Quanto ci piacerebbe a tutti quanti noi volere una cosa perché quella cosa si realizzasse? Noi non possiamo, ma questa è un'altra caratteristica tipica di Dio solo, Dio può, comanda e tutto è fatto, ordina e tutto esiste. Dice la Sacra Scrittura. Questo non vale per noi. A Dio basta volere una cosa per farla. Quindi attenzione, quindi, quando tu ti relazioni con questo essere trascendente, devi ricordare che hai a che fare con questa, diciamo, essenza grossa. In realtà poi, tra l'altro, come dire, ulteriormente rinforzata, confermata, ribadita e ulteriormente ampliata dalla rivelazione che Dio stesso ha fatto a Mosè, come abbiamo esordito, del suo nome proprio. Io sono colui che sono. Ecco. Io sono colui che sono, che abbiamo visto, predica l'identità assoluta, come insegna San Tommaso, tra essere ed essenza, che è propria della divinità, la sua eternità e la sua immutabilità. Quindi, diciamo, in un primo approccio, adesso prima di scendere un pochino nel merito, vedere, cioè accostarci a questo comandamento significa anzitutto riprendere coscienza, riprendere coscienza della santità e della grandezza del nome di Dio, che non può essere in nessun modo, non può essere in nessun modo diminuita e fatta oggetto, insomma, di irriverenza sia nel parlargli, sia nel nominarlo, sia nel relazionarmi con lui da parte di noi che siamo creature. D'accordo? Teniamo presente anche che il nome di Dio è definito dalla Sacra Scrittura santo. Ricordate i salmi? Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. Santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo, lo diciamo durante ogni santa messa, no? Quindi il nome di Dio, che già in se stesso indica trascendenza, grandezza ed eccellenza, è inoltre santo, appunto come dice la Sacra Scrittura. Anche questo termine santo è un termine molto molto forte, e anche questo termine, diciamo che è bene per un istante almeno andare a verificarne l'etimologia. Se io dovessi dire cosa significa santo, diciamo che l'etimologia forte, a mio avviso la più forte di tutte, è quella derivante dal greco. Cosa dice l'etimologia derivante dal greco? Sanctus in greco suona come agios. Agios è alfa privativo e Gios, che viene da Tageos, che significa terra. Quindi letteralmente in greco santo significa senza terra, proprio letteralmente. La Madonna nel Magnificat cosa dice? Il suo nome è santo, quindi afferma senza mezzi termini la santità di Dio. Nell'Antico Testamento la triplice attestazione della santità si trova soprattutto nel libro del profeta Isaia, quello che diciamo prima della Santa Messa. Santo, santo, santo, il Signore Dio dell'universo. Quindi abbiamo detto, dal greco santità significa essere privi di terra. Cosa vuol dire essere privi di terra? Cioè essere al di sopra ancora di ciò che è contingente, caduco e imperfetto. Quindi dimensione tutte queste che appartengono alla dimensione di qua giù. Quindi santità, cioè quando si dice santo, quindi privo di terra, vuol dire privo di qualsivoglia imperfezione. Quindi vuol dire che Dio ha in se stesso ed è in se stesso la perfezione assoluta, ha una trascendenza infinita sui limiti proprio degli enti creati, unitamente agli attributi di eternità e di mutabilità. Tutto questo fa parte dell'essenza divina. Siccome, come abbiamo visto, il nome indica e designa l'essenza, ecco che la perfetta santità del nome di Dio, perfetta appunto perché affermata per 3 volte, numero della perfezione, dai serafini nel libro del profeta Isaia, trabocca e ridonda sul nome dell'Altissimo. Quindi, allora, di nuovo, tanto così le cose, possiamo noi rivolgerci a Dio senza questo grande rispetto che deve caratterizzarci? È assurdo. La liturgia, per esempio, su questo di nuovo dobbiamo spezzare una lancia, per esempio, a favore della liturgia del rito romano antico, perché la liturgia del rito romano antico è molto attenta ad alcune cose che si sono un pochino perse. Per esempio, voi sapete che quando si dice gloria al Padre, chi di voi, non lo so, recita i salmi, la liturgia delle ore, si china il capo in segno di rispetto. Almeno io so, ho visto farlo, che in alcune comunità religiose che recitano i salmi stando seduti, si possono recitare i salmi anche stando in piedi, a gloria al Padre si alzano in piedi e chinano la testa profondamente. Se uno celebra una messa in rito romano antico, quando nomina il nome di Gesù, deve volgere la testa verso la croce che si trova al centro dell'altare e chinare il capo, perché il nome di Gesù è il nome santo del figlio di Dio fatto uomo. Cioè, quindi capite, io non posso nominare il nome di Gesù così. Nomino il nome di Gesù guardandolo e facendo un piccolo segno di riverenza col capo. Sempre nella messa in rito romano antico, quando uno nomina il nome della Madonna oppure il nome di qualche santo, di nuovo fa un gesto di venerazione, chinando il capo, non guardando la croce, ecco, ma rivolto verso il messale, ma comunque deve fare un segno di venerazione, perché tu stai nominando un santo, non stai nominando un santo, non è altro che una persona in cui il nome di Dio ha rifulso della sua santità e che quindi non deve essere adorato come l'Altissimo, ma che merita comunque venerazione. Non in se stesso, ripeto, perché nel santo non c'è altro che un riflesso terso e cristallino della santità di Dio. Adesso noi dobbiamo, questa è una mia fermissima convinzione, cioè che senza che con questo si debba, vi ho accennato prima alle polemiche che mi hanno visto in qualche modo protagonista nei giorni scorsi su Facebook, quindi senza che questo serva a creare immagini terrificanti di o pseudo-terroristiche. Però un minimo di rispetto, ma deve essere recuperato, ma deve essere assolutamente recuperato. L'altro giorno, sempre su Facebook, oggi purtroppo dobbiamo stare in questi posti, ragazzi e ragazze che dobbiamo starci in maniera intelligente, non dovete starci lì davanti a perdere tempo in cose inutili, però di fatto oggi la vita di molte persone passa attraverso questi strumenti di comunicazione, punto. L'altro giorno mi arriva un altro post, un altro tag, veramente per dirlo bene, dove si vedeva una bella fotografia con due ragazzine che ce l'hanno avuto 18-20 anni, sorridenti e maniche corte, che durante una messa distribuivano la comunione così, in magliettina e maniche corte, sulle mani dei fedeli. Cioè, tu dici, cosa che oggi si potrebbe fare sta cosa qui? Allora, come dire, i ministri straordinari sono autorizzati dalla Chiesa Cattolica? Diciamo di sì, però, come ha ribadito una non antica istruzione della Chiesa, i ministri straordinari dovrebbero essere straordinari, straordinari. Cioè, la parola straordinaria non indica, come dire, che sono grossi, quindi sono straordinari perché sono fenomeni. No, cioè è una cosa fuori dell'ordinario. Allora, non ho capito, ragazzi, adesso faccio una piccola polemica, no? Allora, Benedetto XVI fa il motu proprio con cui diciamo così, liberalizza la messa in rito romano antico, no? Dice che il rito romano ha due forme, la forma ordinaria e la forma straordinaria. Allora, dal momento che i ministri straordinari della Santa Comunione sono diventati ministri ordinari in quasi tutte le parrocchie, perché in tutte le messe, specialmente festive, dell'80-90% delle parrocchie, mi tengo basso, si assiste alla processione di persone che vanno a distribuire la comunione. Ma non dovrebbero essere straordinari. Allora, la messa in forma straordinaria è straordinaria, perché tutti quanti ci tengono che sia, quindi è un'eccezione, quindi la fai ogni tanto, però quello che è ordinario è la messa nuova, mi sta benissimo. Ma com'è che questi però stanno sempre in giro, stanno sempre iperattivi dovunque ci si trovano? È davvero indispensabile la presenza di queste, cioè i documenti della Chiesa affermano, come dire, la liceità in linea di principio dell'istituzione, ma dicono che chi li usa deve fare un giudizio serio circa la reale necessità e quindi le circostanze straordinarie, tipo stai a una messa con 1.000 persone, d'accordo, 1.000 persone però, sei un prete solo, si fanno una comunione in 900, beh certo se non vuoi stare fino alla sera, cioè, e non c'è nessun altro prete, circostanza assolutamente straordinaria. Però io dico anche, non sarebbe forse bene, e io vi parlo con la mia esperienza di confessore ragazzi, predicare un pochino di più sul peccato e ricordare alle persone che prima di farsi la comunione, cosa di cui Gesù è contentissimo, attenzione, Gesù ha istituito l'Eucaristia, insegna ai padri, secondo i desideri del suo cuore sarebbe perché ogni fedele lo riceva ogni giorno, secondo i desideri del suo cuore, non ne ha fatto un comandamento perché già la gente si fa la comunione a Pasqua, pensate se avesse fatto un comando di fare la comunione tutti i giorni, andavamo tutti all'inferno dopo. Però è anche vero che per ricevere la comunione uno deve stare in grazia di Dio, Non è che tu ti puoi accostare in un modo balordo. Sapete quante volte a me mi è capitato, grazie a Dio non ero io il celebrante, di vedere persone andare tranquillamente a farsi la comunione, la cosa che manca con delle situazioni assurde, cioè persone dalla vita personale e morale completamente dissoluta. Io ho visto con i miei occhi accostarsi alla Santa Comunione persone che sono state capaci di convivere nel giro di 10 anni con quattro persone diverse. E conviventi in quel momento andare tranquillamente a farsi la comunione come se niente fosse. L'ho visto io, l'ho visto. Allora non sarebbe bene che magari si ricordasse insieme al fatto che Gesù vuole essere ricevuto ardentemente, però per riceverlo ci vuole un cuore puro, punto interrogativo, l'ho già detto in altre circostanze, non vorrei essere petulante. Come mai che ai tempi di mia nonna, buon'anima, negli anni 20 e negli anni 30, i ministri straordinari non c'erano? E per dare la comunione ci voleva il quarto ruolo del tempo, perché davano la comunione, penso che lo sappiate, ginocchia, le balaustre, il sacerdote stava a passeggio per tutto il presbiterio, avanti e indietro. Come mai che non è mai stata necessaria questa cosa? Eppure andava messa molto più gente di quanto ci vanno oggi. Ma come mai? Perché prima di fare la comunione la gente ci pensava, e non è vero quello che dicono alcuni teologi modernisti, che quante se ne devono sentire. Io mi avveleno quando sento queste cose, perché vedo quanto il diavolo lava il cervello alle persone, quanto usa degli argomenti contorti, raffinati e speciosi per seminare l'errore. Sapete cosa dicono questi qua? Dice: no, ma no, non si facevano la comunione perché non avevano capito che la comunione è il completamento necessario della messa. Quindi, a causa della spiritualità devota antica, si era trasformata la comunione in una sorta di devozione particolare. Allora, non essendo una cosa indispensabile, la gente non si andava a fare la comunione. Invece noi adesso siamo grandi teologi, moderni e intelligenti, abbiamo capito finalmente che la messa è un tutt'uno e che la comunione è parte integrante della messa, e quindi esortiamo le persone: che bello, nella messa vanno a farsi tutta la comunione, finalmente abbiamo riscoperto la vera messa, e tutti dietro: ah, vero, bello, eccetera. Io ho sentito preti dire, durante la celebrazione dei funerali, queste parole che mi sono inorridito. Ricordo, non mi capitò di assistere anche a qualche funerale, ma se capite significa inorridito, sarebbe stato ad alzarsi, da prenderlo a schiaffi questo qui. Dice: allora, arrivate alla comunione, ma non è meglio starsi zitti? Dice: allora, io lo so che molti di voi non si confessano da tanto tempo, e Gesù è contentissimo di venire nel vostro cuore, lo sentite con le orecchie mie, basta che ci abbiate il proposito di confessarvi quanto prima. Il proposito di confessarvi quanto prima. Ai funerali, ragazzi, voi sapete che i funerali ci mette piede in chiesa, gente che... Ma, non, io sono un prete, io le confesso alle persone che non si confessano da 10 anni. Tu vai a fare comunione a uno che c'ha un'anima lorda, lercia, col proposito di confessarsi. Dici: purché il proposito di confessarsi sia serio. Dico, allora lì ci stava da mettersi a piangere. Se mi avessero dato una coltellata quando ho sentito questa cosa, sarebbe stato meno doloroso. Ma che dici tu? Allora, capite, questo è assolutamente figlio della più grossa irriverenza che possa succedere. Capite? Ma come ti permetti tu a dire una cosa del genere? Come ti salta in testa? Con quale autorità? Chi ti credi di essere? Prete? Tu sei un ministro di Dio, tu dovresti avere, come dire, la cura di trasmettere alle persone il senso del sacro. Ma come puoi dire una cosa del genere? I preti simpatici che durante l'omelia ti fanno ridere, ti fanno, cioè, allora, io quando parlo ai giovanotti, cioè è ovvio che in certi contesti non è che bisogna essere seriosi, anche perché il Signore... Domenica scorsa è stata la Domenica della Gioia, io ho fatto prediche su prediche, insomma, no? Quindi sull'importanza della gioia e di essere gioiosi e di non averci musi lunghi e di non dare quella becera immagine di un cristianesimo musone. Ecco, rallegratevi nel Signore sempre, ve lo ripeto ancora, rallegratevi, San Giovanni Bosco, essere santi vuol dire essere molto allegri, però ragazzi, questo non può mica diventare... Cioè una sorta di assurdo pretesto per andare a combinare guai, cioè io ritengo che un problema enorme della Chiesa attuale è aver perso questo, ma basta che uno veda le chiese che vengono costruite, che ti fanno perdere la fede, che sono dei mostri ambulanti. Sono dei mostri ambulanti, freddi, cemento. Gesù Cristo relegato dentro qualche sgabuzzino con la scusa che c'è la cappella dell'adorazione, cioè il padrone di casa buttato dentro uno sgabuzzino. Sgabuzzino, questi sono, e uso volutamente questo termine. ripeto, sedie oppure panche, tanto che problema c'è? Che devi stare in ginocchio. Ma no, in ginocchio, che siamo matti, noi siamo figli di Dio, dobbiamo stare in piedi dinanzi al Signore. La posizione dei risorti, Dio è il nostro amico. Mica vuole vermi che si umiliano davanti a lui, che lui vuole essere adorato perché gli piace il culto della nostra adorazione, ci gode a vederci umiliati davanti a lui. Queste sono le sciocchezze, che ogni qua mi altero un po' purtroppo quando ripeto queste cose che si sentono dire, che oggi pullulano. E la cosa grave è che molti gli vanno dietro, i cosiddetti cattolici adulti, che più che adulti sono un'altra cosa che preferiscono non dire, più che cattolici sono pseudo-cattolici, e più che adulti sono modernisti che hanno perso il senno. Per lui si tratta di perdere il senno. Quelli che mi hanno scritto dico: ah sì, Dio non vuole che ci ginocchiamo. Ah, ci picchia. Ma mi sembra che una lettera ai Filippesi, nell'inno alla Chiesa, sia scritto: nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, o sbaglio? O non sta scritto nei profeti: come è vero che io vivo, dinanzi a me si piegherà ogni ginocchio, per me giurerà ogni lingua? Non c'è scritto così. Dico, quindi, Dio non vuole assolutamente che noi ci inginocchiamo. Dico, ma sì? Dove sta scritto questo fatto qua? Chi è che l'ha detto questo fatto? Chi l'ha detto? Qualcuno può chiamare in diretta a dire. Tanto siamo ancora in diretta, come avete potuto tristemente constatare dai problemi tecnici. Don Leonardo, sta scritto in questo posto, sta scritto in questo documento del Magistero, sta scritto in questo Papa, sta scritto in questo Santo, sta scritto in questo testo della Scrittura, sta scritto in questo documento della tradizione. Qualcuno me lo può dire? Mi può telefonare in diretta? Dove stanno scritte queste cose qua? Un altro brutto vezzo che c'è oggi, che testimonia il senso della perdita della santità del nome di Dio. Cioè, il nome del Signore è santo, e santi sono coloro che hanno avuto la grazia e anche la virtù di diventare santi, rivestendosi certamente della santità di Dio, ma santità vera, eh. Allora, per cui oggi un altro vezzo delle sale accademiche e di tutti quanti questi grandi teologi che girano è che chiamano i teologi santi per nome, senza il prefisso san. Allora, Tommaso, con Tommaso intenderebbero San Tommaso, Tommaso, è quello l'amico tuo, no? Cioè, ci facciamo andare a prendere un caffè insieme con Tommaso, che problema c'è? Tommaso, poi c'è Agostino, Gregorio, eccetera. Oh! Che te Tommaso, Agostino? Quello è santo, quello lì. Tu, quando lo nomini, per favore, lo chiami san, anche perché ci sono alcuni scrittori ecclesiastici che l'epiteto san non ce l'hanno. Tanto per fare qualche nome, c'è Origene, che è uno dei padri della Chiesa d'Oriente, ma siccome in mezzo a tante cose buone ha detto anche qualche cosa un po' strampalata, d'accordo? Non poco strampalata, e ha compiuto anche dei gesti che adesso non è il caso che vi dico qui in diretta, che non è che sono proprio molto molto virtuosi, Origene non è santo Origene, è Origene punto e basta. Così come Tertulliano, stavolta padre della Chiesa Latina, voi è stato il primo, pensate, in Occidente ad usare il termine Trinitas. È stato un grandissimo pensatore che ha elaborato, diciamo così, ha messo le basi della dottrina trinitaria occidentale. Ma Tertulliano è morto montanista, cioè perché al termine della sua vita ha aderito ad una setta ereticale, oltranzista, estremista, ed è morto lì. Quindi non è San Tertulliano. È Tertulliano, nel senso che alcune cose che ha scritto e che ha fatto quando ancora non aveva perso il senno sono lodevolissime, ma non è santo. Ed è diverso il peso di un dottore non santo dal peso di un dottore santo. Cioè, l'uso di questo prefisso, cioè, ma come. Voi capite la superbia e l'arroganza che c'è dietro questi atteggiamenti? Questi poi si atteggiano a fare gli umili, questi qua, no? Si atteggiano a fare gli umili. Ma come ti permetti tu di trattare questi giganti di dottrina e di santità come se fossero tuoi pari? Ma come ti permetti? Ti senti forse all'altezza di quella santità e di quella dottrina? I teologi moderni sono all'altezza di queste colonne qui. Ma per favore, guardate, ragazzi miei, Quindi tu questo prefisso lo usi. Lo usi. Non è forse questa una stramba abitudine? Non è una stramba abitudine? A parere mio sì. Stramba e deprecabile abitudine. Il peso specifico di un santo, cioè con una cosa l'abbia detta Fon Baltasar o Runner, va bene, ma se San Tommaso o Sant'Agostino hanno detto il contrario, d'accordo? Mi vogliono denunciare la congregazione della dottrina della fede, lo facciano pure. Per quanto mi riguarda, pesa di più una cosa che ha detto Sant'Agostino e San Tommaso, sia il contrario di quella che ha detto un teologo moderno, che santo ancora non c'è e che tutto è da dimostrare che lo diventi. Detto proprio fuori dei crismi. Quindi, a mio modestissimo avviso, è una prassi deplorevole ed è una consuetudine da combattere. La stessa cosa, quando uno prega e parla con Dio, avete visto le adorazioni che si fanno adesso in giro? Io ho sentito con le orecchie mie, si sta davanti a Gesù Cristo esposto nel Santissimo Sacramento, seduti come tanti baccalà. Cioè tu stai, ma davanti a Gesù Cristo seduto. Non perché c'hai problemi grossi alla schiena o alle gambe che non ti puoi inginocchiare e tu capisci benissimo, no? Si può stare seduti addirittura anche durante la consacrazione se c'è una persona anziana che non si regge in piedi. Io quando porto la comunione ai malati, alcuni che sono malati gravi, quelli fanno la comunione seduti. Ma non è che si devono confessare per peccato di riverenza. Vi posso attestare che alcune persone anziane che hanno molta più fede di noi si sforzano, si puntano sui gomiti e sulle gambe, ma almeno per la comunione, almeno si alzano in piedi, per il senso di rispetto che hanno dentro il cuore. E questi che fanno, se sta Gesù Cristo esposto al Santissimo Sacramento, stanno tranquillamente seduti. Non solo, se qualcuno si mette in ginocchio, ah, quello è un bigotto, quello è un bigotto, è un devozionista. Anzi, tanto non solo questo, è una persona che si mette in mostra perché deve ostentare la sua devozione e la sua religiosità, quindi deve farsi vedere, deve farsi ritenere santo. Pensate che grandi fenomeni che sono, cioè uno che dice queste cose ha già fatto non si sa quanti peccati di giudizio temerario, perché chi l'ha detto che uno che si mette in ginocchio lo fa perché deve ostentarsi santo? Tu lo pensi, e tu lo pensi perché sei colpito nel segno, perché tu che santo non sei, in ginocchio non te ci metti, quello semplicemente adora il suo Dio. Mettendo in pratica ciò che Dio ha detto, nel nome di Gesù, in ginocchio si pieghi. Io sto davanti a Gesù Cristo, umiliato nell'Eucaristia, ci sono schiere di angeli prostrati davanti all'Eucaristia e sto seduto. Ma dico, vogliamo scherzare? Vogliamo scherzare? O posti dentro la Chiesa Cattolica dove adesso sembra che non lo facciano più, ma dove per anni hanno preso la comunione seduti? Oh, come se niente fosse, ingannando anche la povera gente che dice, oh, e che poi qui si fa così, nessuno gli ha detto niente, anche da parte delle alte sfere, si potrà fare. Ma dico, vogliamo scherzare, vogliamo? Allora, concludendo diciamo l'introduzione sul secondo comandamento, il nome di Dio è santo. Quindi il nome di Dio è santo vuol dire che altro che bestemmia, ti cominceremo a parlare la prossima volta. Tu non puoi permetterti, per nessun motivo, di relazionarti con Dio, pur nella dovuta e proporzionata amicizia e confidenza che Lui concede, ricordo che tu non ti puoi prendere di testa tua, dimenticando di la riverenza che devi avere, il rispetto che devi avere, lo spirito di adorazione che devi avere dinanzi a Dio, che rimane immutato. Anzi, la cosa ideale è che tanto più lui si è annichilito e umiliato, adesso tra poco arriva Natale, nella martedì prossimo è Natale. Ma scusate, ma i re magi sono andati lì a a farsi una birra, insomma, prostratisi lo adorarono, gli hanno baciato i piedini al piccolo bambino. Non è che siccome era un bambino nigrito, umiliato, si sono messi ad assumere atteggiamenti non consoni. I pastori che hanno fatto? Ma la Madonna che faceva con Gesù bambino? Che sono questi modi? Ve lo dico io che sono. Sono catechesi di Satana. Purtroppo presentate anche da parte di chi dovrebbe essere luce e faro in maniera così convincente, così attraente, che rimangono tutti stregati misteriosamente e bevono tutte quante queste scempiaggini, mettendole in pratiche, ingenerando confusione dentro il popolo di Dio e causando innumerevoli riverenze verso il nome santo di Dio, che provocano grandissimi danni alla Chiesa. Offendono molto nostro Signore, fanno sbellicare dal ridere i demoni e attirano su tutti noi maledizioni e guai, perché il nome di Dio non può essere e non deve essere profanato e oltraggiato. Ci vediamo, ci sentiamo, ci aggiorniamo se Dio vuole alla prossima puntata. Poi voi seguite Radio Buon Consiglio. Io adesso ancora non mi hanno detto le suore, ma sabato, martedì prossimo è Natale, quindi non so se ci sentiremo. Quindi però sicuramente il primo martedì utile, dopo le feste, torneremo in onda per continuare il nostro discorso. Do la mia benedizione a tutti e vi saluto. Ave Maria.